e poi riprendere con questa diffidenza a programmare, organizzare, che c'è qualcuno da incontrare, che non si può restare al freddo per sempre e poi nascondere quell'imbarazzo di una bocca nuova per il bisogno di sentirsi vivi, o forse per dimenticare e ritrovarsi ancora solo dopo un piacere passeggero che non guarisce, non cancella e non puoi chiedere di più, di più, di più, di più dell'allegria, quella che avevi tu, di più del tuo abitare, la follia, di più, di più, di più della tua voglia pura, del tuo bastarti anche da sola, più di tutto, più del tempo che ancora c'è da vivere. Ti chiederei, ci pensi mai, tu come fai? Scriverle come stai il giorno dopo, ma solo per cortesia, una formalità. Magari ci sentiamo in questi giorni, dai, magari ci vediamo, sì magari. Ma c'è un pensiero solo che copre tutto come un velo, anomalia della memoria che mi fa male un po' di più. Di più, di più, di più dell'eresia che esisti solo tu, di più della tua gelida ironia, di più, di più, di più dell'ultima paura che non è vero che sei sola, più di quello che è rimasto in questo letto, io senza te. Io senza te. Farei, ci pensi mai, tu come fai? Ma quello che io so è che non ho mai dato e mai avuto di più.